Ecco, sono quasi in chiusura della terza assemblea, del terzo giorno di occupazione del Valle. Stiamo andando avanti in un percorso che assemblea dopo assemblea ci sta portando sempre di più a definire quello che veramente vorremmo che fosse questo posto. E quindi stiamo ragionando su vari livelli. Oggi abbiamo centrato la discussione soprattutto su quelli che sono i diritti dei lavoratori e quindi il welfare. Chiaramente andiamo allargando i nostri fuochi, quindi dallo specifico del Valle, quindi il modello di gestione del Valle, andiamo allargandoci via via a quelli che vorremmo che fossero i modelli culturali che consentono anche al nostro lavoro di esprimersi al meglio, cosa che accade sempre meno. Sono intervenute molte realtà oggi, quindi anche questa è la forma dell'allargamento che stiamo portando avanti. Ci sono stati interventi degli autori contemporanei, quindi dei drammaturghi, quindi c'è stato tutto un intervento sulla drammaturgia, che è un'altra categoria fortemente a rischio, sia dal punto di vista dei diritti che dal punto di vista proprio delle politiche, che penalizzano fortemente appunto anche la scrittura drammaturgica del contemporaneo, così come ieri ci sono stati anche altri interventi centrati sulla scrittura, ancora interventi del cinema, che hanno portato a trovare quelli che sono i punti di continuità tra tutti i lavoratori di queste varie, di questi vari settori. Pian piano andiamo verso la costruzione di un modello. Domani, l'assemblea di domani alle 5 sarà incentrata proprio su questo, sul tentativo di andare a riassumere un po' quelli che sono stati gli elementi usciti da questi 3 giorni e andare invece a focalizzare proprio su una proposta di gestione, cercando di capire quale può essere il modello, probabilmente un modello che garantisce la partecipazione attraverso forme di azionariato popolare, quindi sia la partecipazione dei lavoratori dello spettacolo che pian piano della cittadinanza, e proprio su questo vogliamo lavorare in maniera sempre più specifica. La cosa che sta succedendo è che, sebbene al termine dell'assemblea cominciano le serate e ci siano principalmente momenti spettacolari di musica, la mescolanza tra i due livelli avviene comunque quando gli artisti che vengono a portare il loro intervento performativo entrano nelle assemblee e quindi si raccontano e ci raccontano anche attraverso quel momento. Chiaramente possiamo rinnovare anche l'appello a venirvi a trovare, a sostenervi, anche forse per rendersi conto di quanto lavoro c'è poi dietro le quinte, diciamo così. Assolutamente, abbiamo bisogno di quanto più appoggio possibile, soprattutto perché giorno dopo giorno ci rendiamo conto che non è possibile uscire da qui prima di aver in qualche modo focalizzato quelli che sono le nostre richieste, che non sono richieste emergenziali specifiche, ma sono richieste più ampie, appunto proprio di modelli. Abbiamo bisogno di persone che ci vengano a trovare, che partecipano e che ci diamo anche una mano.